Sono qua. Stavo disegnando in un remoto villaggio indiano quando la vidi per la prima volta. Il villaggio era uno di quelli che gli indiani usano solo per pochi mesi all'anno, per il resto del tempo rimane vuoto e desolato. Ci andai in uno di quei periodi di vuoto, in un crepuscolo piovigginoso. Quando l'agente indiano mi scaricò sulla spiaggia di fronte al villaggio, disse: "Qui non c'è anima viva, tornerò a prenderti tra 2 giorni". Poi se ne andò. Avevo con me un piccolo cane e una bambina indiana che, quando vide la barca allontanarsi, si aggrappò alla mia manica e gridò: "Ho paura!". Salimmo alla vecchia casa abbandonata della missione. Al rumore della chiave nella serratura arrugginita, i topi scapparono via. La stufa era rotta, la legna bagnata. Avevo dimenticato di portare le candele. Stendemmo le nostre coperte sul pavimento e passammo una notte miserevole. Forse la mancanza di sonno contribuì allo shock che ebbi quando la vidi per la prima volta. L'acqua era nell'aria, metà nebbia, metà pioggia. Le ortiche pungenti, più alte della mia testa, mi bruciavano le orecchie e la fronte mentre mi facevo strada in mezzo a loro, cercando di tenere i piedi sulla passerella di assi, mezze nascoste. Grosse lumache gialle strisciavano sul camminamento. Mi scivolarono i piedi e caddi a capofitto alla sua base, perché non aveva piedi. Le ortiche che erano sopra la mia testa arrivavano solo al suo ginocchio. Era un totem, una grande immagine di legno che troneggiava sopra di me. Davvero terrificante. Non fu solo la caduta a strapparmi un grido. Il letto di ortiche terminava qualche metro dopo di lei e poi c'era una scogliera rocciosa sotto la quale le onde si abbattevano. Mi arrampicai e andai sulla scogliera in modo da poter vedere la creatura sopra le ortiche, la foresta era dietro di lei, il mare davanti. La sua testa e il busto erano stati intagliati nel tronco di un grande cedro rosso. Sembrava che la creatura facesse parte dell'albero stesso, come se fosse cresciuta lì, nel suo cuore, e l'intagliatore avesse solo sgrezzato il legno esterno per poterla vedere e tirar fuori. Le sue braccia erano attaccate al tronco e si spalancavano in un movimento rotatorio. I suoi seni erano due teste d'aquila, intagliate con un'espressione feroce. Questo, la colonna del suo grande collo e il suo forte mento, avevo visto quando ero scivolata a terra sotto di lei, ma ora vedevo il suo volto. Gli occhi erano due tondi neri incastonati in tondi più ampi bianchi e collocati in profonde orbite sotto ampie sopracciglia nere. Il loro sguardo mi fissava come se la vita stessa del vecchio cedro si affacciasse e sembrava che la voce dell'albero stesso potesse rompere da quella grande cavità rotonda con le labbra sporgenti che era la sua bocca. Le sue orecchie erano rotonde e si protendevano per catturare tutti i suoni. L'aria salmastra non aveva attenuato il rosso intenso del tronco, delle braccia e delle cosce. Le sue mani erano nere, con le punte delle dita smossate, dipinte di un bianco abbagliante. Rimasi a guardarla per molto, molto tempo. La pioggia cessò e una nebbia bianca salì dal mare, respingendola gradualmente nella foresta. Era come se lei appartenesse a quel luogo e la nebbia la riportasse a casa. A poco la nebbia prese anche la foresta e avvolgendole entrambe le nascose. "Chi è quell'immagine?" chiesi alla bambina indiana quando tornai a casa. Sapeva a quale immagine mi riferivo, ma per guadagnare tempo mi chiese: "Quale immagine?" "Quella terribile là fuori sulla scogliera." La ragazza aveva frequentato la Mission School e la paura le si leggeva negli occhi. "Non lo so", mentì. Non andai mai più in quel villaggio, ma l'immagine del palo di legno con quel viso feroce mi tornava spesso in mente, sia nella veglia che nel sonno. Passarono alcuni anni e mi trovai di nuovo a disegnare in un villaggio indiano. In questo villaggio vivevano dei nativi e, in un modo un po' lento, si stavano modernizzando, tra virgolette. Avevano respinto un po' indietro la foresta per permettere al sole di toccare i nuovi edifici che stavano sostituendo le vecchie baracche della comunità. Piccole case abbastanza primitive per i bianchi sorgevano qua e là tra le vecchie. dove alcune delle grandi case della comunità erano state abbattute per ricavarne legname, i grandi pali d'angolo e le massicce travi del tetto delle vecchie strutture erano spesso rimasti nudi contro il cielo e la nuova casetta era stata costruita all'interno nel punto in cui si trovava quella vecchia. Fu in uno di questi scheletri vuoti che la ritrovai. Un tempo era stata un palo di sostegno per la grande trave centrale. Il suo palo compagno, che rappresentava il corvo, si trovava di fronte a lei, ma la trave che poggiava sulle loro teste era scomparsa. I due pali erano rivolti verso l'interno e dalla distanza tra loro si poteva giudicare la grandezza della casa. I pali d'angolo erano ancora al loro posto e il pavimento di terra, un tempo battuto dai piedi nudi fino a diventare duro come la roccia, era ora ricoperto da una ricca erba rigogliosa. La riconobbi dalle orecchie sporgenti, la bocca urlante e le profonde orbite oculari. Queste orbite non avevano i bulbi oculari, erano buchi vuoti, ma molto espressivi. Lo sguardo, sebbene non così feroce come quello della prima immagine, era più intenso. L'intera figura esprimeva potere e dominio, piuttosto che ferocia. I suoi piedi erano pesantemente piantati sulla testa dell'orso accovacciato, scolpita sotto di loro. Un uomo avrebbe potuto sedersi su una delle sue enormi spalle. Non era dipinta, era consumata dalle intemperie, era screpolata dal sole e braccia e mani sembravano pendere senza peso. Le dita erano infilate nelle bocche intagliate di due teste umane, tenute a corona. Da dietro il sole creava ombre insondabili sugli occhi, sulle guance e sulla bocca, un'orribile maschera. Vidi l'indiano Tom sulla spiaggia e andai da lui. Chi è lei? Gli occhi dell'indiano, che ritornavano lentamente da oltre il mare, seguirono il mio dito puntato. Il risentimento traspariva dal suo volto, bruno, verde e rugoso come una mela cotta, il risentimento per il fatto che i bianchi potessero impicciarsi di questioni interamente indiane. Chi è quella grande donna scolpita? Ripetei. Zonoqua. Nessuna lingua bianca avrebbe dovuto pronunciarne il nome, accarezzandolo come lui aveva fatto. E chi è Zonoqua? È la donna selvaggia dei boschi. Che cosa fa qua? Ruba i bambini. Per mangiarli? No, li porta nelle sue grotte. Quella, indicando una cicatrice viola sulla montagna di fronte alla baia, è una delle sue grotte. Quando grida Oh, oh, oh, oh, eo! Le madri indiane sono troppo spaventate per muoversi. Rimangono in piedi come alberi e i bambini vanno con Sonoqua. Allora è cattiva. A volte male, a volte bene, rispose Tom, lanciando un'occhiata furtiva a quelle orecchie sporgenti. Poi si alzò e si allontanò. Tornai indietro e sedendomi di fronte all'immagine la fissai, ma il suo sguardo sovrastava a tal punto il mio che a stento riuscivo a staccare gli occhi dalla stretta di quelle orbite vuote. Il potere che sentivo non era nella cosa in sé, ma in una forza tremenda dietro di essa, in cui l'intagliatore aveva creduto. Un'ombra passò sulle sue mani e sui loro orribili appigli. Un uccellino con il becco pieno di materiale da nido volò nella cavità della sua bocca, proprio sulla strada di quel terribile Oh! Oh! Oh! Oeo! Poi il mio sguardo colse qualcosa che mi era sfuggito. Un gatto soriano addormentato tra i suoi piedi. Questa era Zonoqua, un essere soprannaturale che apparteneva a questi indiani. Naturalmente, mi dissi, non credo negli esseri soprannaturali, eppure. Chi può capire i misteri che si celano dietro la foresta? Cosa si farebbe se si incontrasse un essere soprannaturale? Una metà di me desiderava incontrarla, l'altra metà sperava che non accadesse più. La barchetta era entrata nella baia per portarmi in un altro villaggio, più solitario e deserto di questo. Chi poteva sapere cosa avrei visto lì? Ma presto gli esseri soprannaturali sparirono dalla mia mente perché ero completamente assorbita dal mal di mare che di soprannaturale non aveva proprio nulla. Quando si è state sballottate, ridotte a rottami e infreddolite, qualsiasi pontile sembra buono, anche quello più sgangherato, con i pali di sostegno contorti e ricoperti di cirripedi. La nostra barca annaspava sotto la sua umida oscurità e io strisciavo su per la scaletta dritta e viscida, chiedendomi se fosse peggio il mal di mare naturale o i brividi soprannaturali. Gli alberi crescevano folti fino al bordo dell'acqua e quelli più esterni, sospesi sopra, ombreggiavano la costa formando come una macchia di velluto. Zonoqua potrebbe camminare in posti come questo. Rimasi a lungo seduta sulla spiaggia umida al crepuscolo in attesa del postale. Uno dopo l'altro, dalle capanne sparpagliate, spuntavano puntini di luce che facevano sembrare il buio ancora più cupo. E finalmente arrivò il postale. Attraversammo la foresta su una lunga strada dritta, con pini neri che sfilavano su entrambi i lati. Quando arrivammo al molo, la piccola nave postale a gas ci stava aspettando. L'odore e la luce offuscata trasudavano dalla sala macchine e a parte una lanterna sul molo, tutto il resto era buio. Stringendo il mio cagnolino, mi sedetti sui sacchi della posta che erano stati gettati sul ponte. Le corde furono sciolte e scivolammo nell'acqua nera e oleosa. La luna che ci aveva accompagnata nella foresta era ormai lontana. Le montagne ricoperte di pini neri si stagliavano su entrambi i lati dell'insenatura come denti. Ogni sussulto del motore ci scuoteva come un grande singhiozzo. Non c'era un parapetto intorno al ponte e il bordo della barca era a livello del sottostante orrore di acqua nera e strisciante. Era come essere inghiottiti ancora e ancora da un mostro terribile, ma senza mai arrivare in fondo. Mentre scivolavamo nell'acqua, ora dopo ora, mi ritrovai ad ascoltare lo oh, eo. A mezzanotte arrivammo a un promontorio, lambito dall'acqua su tre lati e con la foresta che minacciava di inghiottirlo sul quarto. C'era un rude approdo, una fitta camera e un punto di ristoro e un negozio, tutto per la comodità di pescatori e taglialegna. Mi fu assegnata una stanza, ma dopo aver spento la mia candela, la quiete e l'oscurità non mi lasciarono dormire. Nel brillante scintillio del mattino, quando tutto ciò che non era superlativamente blu era superlativamente verde, ho chiesto a un uomo che stava portando una barca lungo l'insenatura di darmi un passaggio fino al villaggio verso cui ero diretta. «Ma lì non c'è nessuno!» protestò. «C'è Zonoqua!» dissi a me stessa. Dalla riva, mentre remavamo verso di essa, giunse un sottile grido femminile, il miagolio di un gatto. La chiglia della barca aveva appena toccato i ciottoli quando il gatto saltò a bordo, passò davanti all'uomo che manovrava i remi e si accucciò in grembo, sporgendosi in avanti. L'uomo afferrò rudemente la creatura e, gridando «Sporchi parassiti indiani!», la scaraventò in mare. Saltai a riva, rifiutando il suo aiuto e con un brusco «Tornate al tramonto!» risalii la spiaggia. Il gatto mi seguì. Quando attraversammo la spiaggia e arrivammo a un argine scosceso, il gatto corse avanti. Allora vidi che non era un gatto indiano magro e malconcio, ma un elegante persiano aristocratico. Il mio aristocratico cagnolino, che di solito si rifiutava di lasciarsi avvicinare da un gatto indiano, mi sorprese camminandogli accanto cameratescamente. Il villaggio era un tipico villaggio nativo di quei luoghi. Aveva una sola strada e un solo lato della strada, poiché tutte le case si affacciavano sulla spiaggia. Le due case della comunità erano molto vecchie, fatiscenti e scolorite, e la manciata di altre baracche sembrava non essere mai stata nuova. Prima ancora di essere finite, erano diventate già così vecchie che non valeva nemmeno la pena di finirle. Lucchetti arrugginiti proteggevano con cura le pareti spalancate. Davanti alle case c'era il solito largo tavolato dove sedevano e riposavano i nativi. Sotto di esso scorrevano piccoli ruscelli e le erbacce spuntavano da ogni fessura, nascondendo per metà i mucchi di lattine, bollitori e stracci che attendevano pazientemente la prossima burrasca per essere trascinati in mare. Davanti alla casa del capo c'era un altro totem intagliato, sormontato da una grande aquila di legno. Le tempeste l'avevano privata di entrambe le ali e la sua testa si torceva con espressione risentita, come se incolpasse qualcuno. Le pesanti teste di legno di due orsi accovacciati sbirciavano oltre le cime delle ortiche. Le finestre erano troppo alte per poter sbirciare attraverso. Ma a parte Zonoqua, chi c'è a sbirciare? dissi ad alta voce, solo per rompere il silenzio. Un sole feroce ardeva, come se volesse mettere a nudo ogni bruttura. Tirò fuori l'odore nefasto dei cavoli a foglia che crescevano nella ricca melma nera del ruscello, imbrattò le botti d'acqua con la melma verde e marchiò la desolazione nella mia stessa anima. Il gatto mi stava molto vicino, si strofinava e si urtava e faceva le fusa, e anche se non li avevo visti arrivare, altri due gatti si erano uniti a noi. Quando mi sedetti, si accoccolarono nel mio grembo e allora la stranezza del luogo non mi creò più disagio così profondamente. Mi alzai, decisa a guardare dietro le case. Le ortiche crescevano negli stretti spazi tra loro. Le ho abbattute e mi sono fatta strada sulla massa livida e maleodorante in uno spazio di giungla bassa. Molto tempo fa, gli alberi erano stati abbattuti e lasciati a terra. La giovane foresta era esplosa attraverso i tagli, creando una barriera inespugnabile e sigillando i segreti che si celavano dietro di essa. Un'aquila uscì dalla foresta, girò intorno al villaggio e tornò indietro. Ancora una volta ruppi il silenzio, gridando: «Dite a Sonoqua!» E voltandomi, la vidi vicina, sovrastata dalla giungla. Come negli altri villaggi, era scolpita nel tronco di un cedro rosso. Il sole e la tempesta avevano scolorito il legno, il muschio qua e là ammorbidiva la crudezza delle sculture, la autenticità era alla base di ogni tratto. Non sembrava essere fissata nel legno, ma, al contrario, uno spirito canoro, giovane e fresco, che attraversava la giungla. Nessuna violenza la rendeva grossolana, nessun potere poteva farla appassire. Era graziosamente femminile. Sulla fronte il suo creatore o la sua creatrice avevano modellato il Sisteotl, il mitico serpente marino a due teste. Una delle sue teste ricadeva su entrambe le spalle, nascondendo le orecchie sporgenti e incorniciando il suo viso da una scriminatura centrale sulla fronte che sembrava aumentarne la femminilità. Ti prende il fiato questa zonoqua, viva nel tronco morto del cedro. Riassumeva la profondità e il fascino dell'intera foresta, allontanandone la minaccia. Mi sedetti a disegnare. Cos'era questo rumore di fusa e sfregamenti intorno ai miei piedi? Gatti! Mi strofinai gli occhi per essere sicura di vedere bene e ne contai una dozzina. Mi saltarono in grembo e mi salirono sulle spalle. Erano veri e molto femminili. Eravamo lì, Zonoqua, i gatti ed io, la donna che solo pochi istanti prima si era costretta a girare dietro le case tremando per la paura della donna selvaggia dei boschi. Selvaggia nel senso in cui le creature dei boschi sono selvagge, schive e intoccabili. Il sangue. Il rumore delle onde entrò dalla porta aperta, entrò anche l'odore del mare e della terra riscaldata dal sole. Si prevedeva che molto presto sarebbe entrata la morte. Una fila di donne sedeva fuori dalla capanna, stavano aspettando di piangere e ululare quando la morte fosse arrivata. L'ammasso di ossa e pelle avvizzita sul materasso all'interno della capanna sapeva che il suo momento stava arrivando. Anche se la donna era senza figli e senza marito, sapeva che le donne della sua tribù avrebbero ululato per lei quando fosse stata la fine. Gli occhi della donna morente erano vitrei e semichiusi. Mi inginocchiai accanto a lei e misi la mano sulla sua ossatura fredda. La stoffa della mia camicia la sfiorò e lei spalancò gli occhi. Girando la mano, strinse debolmente la seta della mia camicia. «C'è qualcosa che vuoi, Mary?» «Bene», sussurrò, stringendo ancora la manica. Pensai che fosse morta, stringendo la mia manica in una morsa ferrea. Una delle donne entrò e cercò di liberarmi. Gli occhi di Mary si aprirono e parlò in indiano. «Mary vuole la tua camicetta», mi disse la donna china. «Vuole la mia camicetta? Per la tomba? Da seppellire? No, per la casa della tomba». Capii. Mary non aveva molte cose ora, ma una volta era stata una donna importante. Sulla sua tomba avrebbero costruito una casetta di legno con una vetrina. Qui avrebbero esposto i suoi pochi averi, le povere inezie accumulate nei suoi giorni migliori. La mia camicetta sarebbe stata un'aggiunta. Gli occhi della donna morente erano sul mio viso. Mi sfilai la camicetta e mi infilai la giacca. Posai la camicetta sul suo corpo e lei morì con le mani avvinghiate ad essa. Lo sguardo. Lo sguardo di Millie era la cosa più grande della capanna. Si allargava per un momento quando ci trovavamo sulla sua strada, ma non aveva alcun interesse per noi. Nel momento in cui ci spostavamo dal suo percorso, si restringeva di nuovo, quello sguardo teso e vivo che brillava negli occhi infossati di una bambina indiana malata. Tutta la vita rimasta nella piccola creatura emaciata e raggrinzita era concentrata nello sguardo. Si era tracciata una strada attraverso il mare fino all'orizzonte, bruciando di desiderio per il ritorno della baleniera di suo padre. Il missionario si chinò sulla bambina. Millie. Gli occhi di Millie si sollevarono con stizza, poi si affrettarono a tornare a guardare. Rivolgendosi all'anziana megera che aveva preso il posto di una madre morta e si prendeva cura della bambina, il missionario chiese: «Come sta, nonna?» «Immagino che la barca non arriverà in fretta. Millie morirà molto presto.» «Non si hanno notizie delle barche?» «No, forse tutti gli Injun sono morti. La pesca delle balene è parecchio, parecchio pericolosa per riuscire ad ammazzarle.» Le portarono del cibo. Lei si sforzò di mandarne giù abbastanza per mantenersi in vita fino all'arrivo del padre. Accovacciata sulla sua stuoia, sul pavimento di terra, con il mento appoggiato sulle ginocchia appuntite e circondata dalle braccia come stecchini, rimase seduta dall'alba al tramonto osservando. Quando la luce non ci fu più, lo sguardo si aiutava con l'udito, le orecchie di Millie ascoltavano, ascoltavano nella notte nera. Fu al mattino presto che le baleniere tornarono a casa. Quando la nebbia si alzò, Millie vide 8 puntini all'orizzonte. Tesa, immobile, senza dire una parola, li guardò crescere. «Le barche stanno arrivando!» Il grido risuonò nel villaggio. Le donne lasciarono le loro focacce e i loro cesti e si affrettarono a raggiungere la riva. L'anziana donna che si occupava di Millie andò sulla spiaggia zoppicando con gli altri. «Le barche stanno arrivando!» I vecchi che scaldavano i loro corpi rigidi al sole si proteggevano gli occhi con le mani per guardare lontano, verso il mare, gemendo di gioia per il fatto che i loro figli erano salvi. Arrivano le barche! Le orecchie rapide dei bambini udirono il grido nell'edificio della scuola e, sporgendosi dai loro banchi senza permesso, si precipitarono verso la riva. Il missionario li seguì. Era l'evento dell'anno, questo ritorno delle baleniere. Il padre di Millie fu il primo a sbarcare. I suoi occhi cercarono tra la gente. «La mia bambina?» I suoi piedi seguirono le dita puntate delle donne. Risalendo di corsa l'argine, la sua mole riempì l'ingresso della capanna. Lo sguardo di Millie lo avvolse. Lei ondeggiò verso di lui. Le braccia le caddero per terra. Le pesanti trecce dei suoi capelli ondeggiarono in avanti, indebolita dal gran guardare. Il suo sguardo si era spezzato.